Franco? Franco Canale 20? Ok, ci sono. Mi ascolti? Sì, che ti ascolto, è a voglia. Alla grande. Capo, dimmi una cosa. Come radio, com'è questa? Ma è buona, perché è buona. Però ho avuto modo di sentirti meglio con altri microfoni, forse, o con altre radio. Questa non... Sì, è buona lo stesso, non c'è niente da dire. Però con l'altra radio ti ho sentito meglio, più chiaro. Capo, va bene, questa non è una radio che va bene 27. Questa è Lincoln 706. Ok. Ma vanno bene con le radio. Vanno bene, no? Forse può essere che voglia regolata bene e basta, tutto lì. No, già va bene. Il segnale, vediamo, adesso te lo segnale, fai un altro passaggio. Capo, no, adesso te vedi questo passaggio qua, e va bene. E poi il segnale poi adesso gli tolgo il compressore, voglio vedere dove è capo, eccolo qua. Sì, la modulazione è cambiata, ma si è abbassata di molto, Si è abbassata di molto, Franco. Ok, adesso vado di nuovo col compressore. Adesso ci voglio mettere, voglio provare un altro microfono, che ha fatto la cosa, l'MC60. Un attimino, glielo aggancio. Va bene, prova. Ok, Giulio, vieni a vedere com'è adesso la radio. Sì, la radio è forte, però io sento qualcosa di disturbo sotto, sento. Come di disturbo? Ventola? Può essere che sia la ventola, non lo so, perché c'è una specie di cosa, una cosa così, capito? Sì, in effetti è la ventola della radio, quella lì. Adesso mi è allontanato col microfono, è la ventola che c'ha la radio all'interno. Ho capito, no, come radio è di una lunga superiore a come la prima. Questa, la radio è bella, forte anche, molto molto bella, molto brimpante. Peccato che c'è col disturbo, ma forse quello con la pulita la ventola, non lo so. Vabbè, quello glielo posso eliminare, no, non è che vuole pulita, è arrivata adesso da poco, è arrivata l'altra settimana da fuori che aveva un tecnico che me l'ha tutta riparata, pulita e fatto. Niente, no, adesso sto aspettando il campo di separazione del frontalino e così la radio la metto da un'altra parte, lontano, in modo che non sento la ventola e mi tengo sul frontalino da parte. Ho capito, sì, no, come radio è bella, è pulita, cioè è chiara ed è anche forte. Il peccato che ci sia quel ronzio sopra, è una signora, è proprio un ronzio. Come per dire, lo so, vedete ce l'hai quando la padella sta friggendo le uova, che fa quel rumore, l'olio, eccetera, una cosa del genere. Sì, perché l'MC60 tu lo sai che è un microfono che raccoglie a distanza, raccoglie tutti i rumorini. Sì, ma comunque, va bene, volevo fare questa prova qua, volevo vedere se stava andando bene, me l'ha riparato bene, vuol dire. Va benissimo, torniamo là. Sì, torniamo là, vai, ok.